ricordo che ero ancora ragazzino, ma come un uomo lavoravo già. La mia canzone era questa qua. Cerco la terra, costa fatica, sempre di più e sempre di più. Cerco la terra e come una donna, ogni stagione cambia la gonna. È gialla l'estate, grano maturo, rossa d'autunno, vino sicuro e verde oliva. Si viene inverno, a primavera si veste da sé. Sposo, viva la sposa, più si fa notte e più mi innamoro, ma quando è giorno è doppio lavoro, e lavora col sole, lavora col vento, si parte all'alba e si torna al tramonto, ma con la luna e c'è.